sono fatta fumo una merda per io sono qua nella pelle e sono sempre che io da me e mi rimane per